Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente avremo un ampio approfondimento su quanto deciso dal Consiglio dei Ministri e quindi via libera al decreto legge sulle pensioni, quello che fa seguito alla sentenza della Consulta. È già ieri anticipata dal Premier Matteo Renzi, e quindi il bonus una tantum in media di 500 euro va da 278 a 750 euro a seconda del tipo di pensione, erogato dal prossimo 1 agosto per recuperare le mancate indicizzazioni delle pensioni, quindi l'adeguamento all'inflazione nel periodo 2012-2013. Sono 3.700.000 i pensionati coinvolti e invece 650.000 i pensionati che, avendo un assegno sopra i 3.200 euro lordi, non riceveranno nulla. Poi l'indicizzazione scatterà nel 2014-2015 e dal 2016 sarà permanente, più generoso come tasso di indicizzazione. Di questo parleremo chiaramente. Tra l'altro l'hanno chiamato il bonus Poletti, insomma in realtà non è il bonus Poletti, è il bonus Consulta, se vogliamo, se va ben tutto, ma non è merito del Ministro del Lavoro. Per quello che riguarda la borsa invece, attenzione all'indice di Milano, meno 1,51% in teoria, o meglio, in realtà segna è questo il calo che segna Milano, mentre Parigi è invariata, Francoforte più 0,90, Londra più 0,14, l'America invariata, ma oggi c'è lo stacco cedole di tantissimi, quasi tutti, devo dire, no, quasi tutti è eccessivo, però tantissimi titoli anche e soprattutto del FTSE MIB, il che vuol dire che l'indice è tra virgolette falsato per un 1,6%, quindi se leviamo questo elemento sarebbe positiva di uno 0,1%, in linea con il resto sostanzialmente d'Europa. Quando il titolo, la società quotata stacca la cedola, il dividendo, chiaramente il valore del titolo si riposiziona al netto di questo stacco, altrimenti sarebbe troppo facile, diciamo. E infatti vediamo Snam meno 5,67, Monte dei Paschi, che però, attenzione, Monte dei Paschi non stacca la cedola, perde un reale 5%, Eni invece perde il 3,36% ma ha staccato il dividendo, come Intesa San Paolo meno 2,70, Generali ed Enel Green Power, ma anche Atlantia il 2,30 di calo, staccava il dividendo, Tods pure stacco cedola, Buzzi Unice meno 2,20, Ubibanca meno 1,90 anch'essa in stacco cedola, Popolare di Milano meno 1,60, Pirelli, Ansaldo meno 1,50, sono tutte società che hanno staccato oggi il dividendo, Mediobanca meno 1,30. Di positivo c'è, allora, nonostante, diciamo così, lo stacco cedola, la Popolare Emilia Romagna più 1,16, Luxottica anch'essa oggi staccava la cedola ma è comunque positiva dell'1%, e per Azimuth vale lo stesso ragionamento, più 0,40%, Exor più 1,45% e A2A più 1,30%, Fiat Chrysler più 1,30% anch'essa. Dicevo, parleremo del bonus per adeguarsi, che il governo staccherà per adeguarsi alla sentenza della Consulta. In apertura il tema oggi presente sul Sole 24 Ore del lunedì, e quindi quanto pesano le aliquote, l'IRPEF locale, le aliquote di regioni e comuni, con variazioni anche significative nel paese, aumentano fino al 125%, il conto più alto lo pagano i contribuenti veneti e lombardi, complessivamente valgono 16 miliardi di euro le addizionali IRPEF, o almeno l'incasso stimato quest'anno, il che vuol dire un 37% in più rispetto al 2010. Lo dico perché non esiste alcun calcolo di carattere scientifico ed economico, però è chiaro che nel momento in cui tu hai un aumento delle addizionali regionali, parte, per chi ne ha beneficiato, dei vantaggi del bonus di 80 euro, l'abbiamo detto più volte, se ne vanno e sfumano in questo modo. in altri cittadini che non hanno avuto nemmeno il bonus di 80 euro, è semplicemente un'ulteriore uscita di spesa familiare. Ok, tra l'altro l'IRPEF dei territori, degli enti locali, vale ormai il 10% di quella nazionale, con un ritmo di crescita di 500-600 milioni l'anno. Anche qui attenzione al gioco delle tre carte, non è che improvvisamente i comuni e le regioni siano diventati cattivi, ci sono meno trasferimenti da parte dello Stato. Ora poi lo Stato, il governo centrale può dire abbiamo meno pressione fiscale a livello nazionale, se però, non ci vuole un grande scienziato per capirlo, aumenta quella di carattere locale perché tu hai fatto meno trasferimenti, il gioco è un po' quello delle tre carte, ma non cambia il risultato finale per il contribuente. Tra l'altro nel 2014 l'aumento delle addizionali locali è stato del 4% rispetto al 2013, per un totale di 15 miliardi, quest'anno vi sarà un ulteriore aumento perché dovrebbero essere 16 miliardi, il 72% va alle regioni, il resto ai comuni. Allora, il dire che, voglio essere chiaro, questi aumenti siano anche conseguenza della riduzione dei trasferimenti da Stato verso regioni e enti locali, non significa però giustificare qualunque spesa delle regioni il fatto che le regioni ricorrono solo all'aumento della tassazione. Abbiamo una poco simpatica e invidiabile classifica ogni settimana, il venerdì, la top 5 degli sprechi. Purtroppo molte volte sono protagoniste le regioni italiane, non tutte, ci mancherebbe, in altri casi i comuni italiani. E qualche risparmio si può fare sui gettoni di presenza, si può fare su alcune spese, per cui non si può fare tutto nel buon fascio. E questo non vuol dire che la regione sia in automatico giustificata a aumentare l'addizionale perché non riesce a contenere i costi, o il comune. C'è tutto il tema delle municipalizzate che affronteremo, ma questa è la situazione complessiva, perché poi al contribuente finale, cioè a tutti noi, poco interessa sapere, o meglio cambia poco sapere se è dovuto a mancato trasferimento, se è dovuto al fatto che la regione ha già tagliato tutto quello che poteva tagliare, non ha altre strade se non aumentare i tributi locali. Quello che conta è che ti escono più soldi di tasse, e quindi l'effetto benefico, ammesso che uno abbia goduto gli 80 euro, in buona parte svanisce. Ne parleremo in apertura. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo anche dei conti dell'INPS, nel senso che oggi l'INPS fa sapere che le domande di disoccupazione a marzo sono calate del 15,5% rispetto a un anno prima. Tra l'altro la cassa integrazione fa un meno 37% ad aprile rispetto all'aprile del 2014, crolla la cassa integrazione in deroga, quella data a chi non ne avrebbe avuto diritto, meno 77%, però attenzione che pesa sul dato complessivo. Qui il problema non è che magari non ci fosse più bisogno di cassa integrazione in deroga, si sono bloccati i finanziamenti e quindi chiaramente crolla la cassa integrazione in deroga erogata. Il ministro Poletti poi su questo ha detto che ci sarà un miliardo per la cassa integrazione nel 2015. Anche di questo parleremo. Rapidamente le altre notizie in breve. Cedra, mi spieghi che vantaggio ha? No, scusatemi, il punto è molto semplice: il titolo poi si muove e si riposiziona al netto del valore della cedola, perché sennò altrimenti, ma è ovvio che è impossibile, uno comprerebbe il titolo il giorno prima dello stacco cedola, si beccherebbe la cedola e venderebbe il titolo. Allora è ovvio che non può funzionare così. Il vantaggio qual è? Mi scrive un ascoltatore, ma qual è il vantaggio? Il vantaggio è che se tu tieni il titolo in portafoglio, diciamo per un anno, nell'anno di bilancio, a fine anno il valore, poniamo che la cedola sia di un euro, il titolo valeva 15 euro, tu hai una cedola di un euro e quindi ci hai guadagnato un euro su 15. Ma se te lo compri il giorno prima, il titolo si riposiziona sul valore ex stacco cedola, dai. Allora, dicevo rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo sul tema delle pensioni, perché anche su questo, anzi soprattutto su questo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono poi trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma di oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Il governo ha quindi indicato una soluzione per affrontare il difficilissimo nodo degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato per il 2012 e il 2013 il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a circa 1.400 euro lordi al mese. Il meccanismo individuato, che sta già suscitando pesanti critiche nei confronti del governo da parte delle opposizioni, prevede un rimborso in cifra fissa, una tantum, fino a un massimo di 750 euro, che sarà riconosciuta solo sulle pensioni fino a 3.200 euro lordi al mese. È un meccanismo che consentirà di contenere la spesa complessiva a poco più di 2 miliardi di euro rispetto ai 18 che sarebbero stati necessari per adeguare integralmente le pensioni bloccate. Quindi, come aveva detto il ministro dell'economia Padoan, il governo ha minimizzato i costi di adeguamento alla sentenza. Si può criticare questa scelta, come molti stanno facendo, tra l'altro anche tra quanti quell'articolo del decreto Monti l'avevano a suo tempo votato in Parlamento, ma la sensazione, visti i numeri, è che qualsiasi governo che si fosse trovato nelle condizioni in cui oggi si è trovato il governo Renzi si sarebbe comportato esattamente allo stesso modo, ovvero avrebbe cercato di limitare l'impatto della sentenza sui conti pubblici. Forse non è la cosa più giusta, forse non è la cosa più equa, certamente è la più realistica e probabilmente anche l'unica possibile viste le cifre in gioco. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, so già che vi saranno molti messaggi e contestazioni, avremo ampio modo per parlarne dalle 18 in poi, però è chiaro che il governo minimizza il danno, l'esborso è di 2 miliardi, quindi, e come hanno spiegato in conferenza stampa, poi li ascolteremo, un pezzetto lo faccio sentire anche adesso, però sia il Presidente del Consiglio Renzi che il Ministro dell'Economia Padoan, e quindi su questo c'è un contenimento del danno. Renzi ha chiarito oggi in conferenza stampa che se avessero dovuto rimborsare tutte le pensioni una volta sola avrebbero dovuto togliere 18 miliardi ad altri, avremmo dovuto penalizzare, detto Renzi, asili, infrastrutture e dipendenti. Il bonus, diciamo, deciso, annunciato oggi ufficialmente, vale 2 miliardi e 200 milioni quasi. Però uno lo può pensare come vuole, ci mancherebbe. Quello che è abbastanza inaccettabile, e sono molto d'accordo con Salvatore Padula, è vedere che le critiche arrivano anche da chi la legge Fornero e il governo Monti lo appoggiò, e mi riferisco, e vado a memoria ma penso di non sbagliarmi, PD, Nuovo Centrodestra non c'era, c'era l'UDC e Forza Italia, o Popolo della Libertà, Forza Italia si chiamava già, se non ricordo male. Ok, non c'erano i 5 Stelle e non lo votò la Lega, per precisione. Ora, in chi votò e appoggiò quel governo? È un po' così ipocrita sentire dire adesso: ah, sbaglia. Cosa avrebbe fatto un altro governo? A parte il fatto che voi dovete rispondere politicamente, ripeto, i due principali partiti di allora, PD e Forza Italia, di aver appoggiato il governo Monti, quindi non è che puoi criticare se adesso si mette una si sistema una cosa che voi avete votato, per cui ci fu un errore o quel punto dovuto alla fretta, all'emergenza, quello che volete. Dopodiché immaginiamo che il governo avrebbe potuto restituire 18 miliardi, c'è un'altra finanziaria, quest'anno ci becchiamo due finanziarie? No, perché chiedo. Poi uno può contestare l'ammontare, c'è chi dice che non bisognava rimborsare nulla, un po' difficile con una sentenza della Corte è costituzionale. Su questo il ministro Padoan ha spiegato che poi dall'anno prossimo, dal 2016, vi sarà l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione più generoso di quello usato negli anni precedenti, che diventerà permanente. Il provvedimento si può dividere in tre parti: un calcolo degli arretrati relativi alla indicizzazione degli anni 2012-13, che sono arretrati che coprono parzialmente quelli previsti dalla rimozione in base alla rimozione della legge votata nel 2011 per quanto riguarda le pensioni superiori a tre volte il minimo e fino a sei volte il minimo. una seconda parte che riguarda il calcolo della indicizzazione per il periodo 2014-2015 e infine a partire dal 2016 una introduzione di un meccanismo di indicizzazione più generoso rispetto a quello utilizzato per il calcolo negli anni precedenti, in modo tale che negli anni successivi i principi ispiratori della norma della Corte Costituzionale, cioè adeguatezza, gradualità e proporzionalità nel trattamento dell'indicizzazione, sono rispettati. Questo significa, lo ripeto ancora, che l'aumento di reddito tramite pensioni diventa un aumento permanente in base alla introduzione di un meccanismo di indicizzazione. Con l'ascoltatore che dice: ma perché Renzi cita gli asili, le scuole? Lo sappiamo, questo è un brutto vizio della politica, anche degli enti, degli amministratori degli enti locali, che quando arrivano dei tagli la prima cosa è: non potremo più fare le buche dalle strade, gli asili, le scuole. È vero, uno può tagliare qualcos'altro, ma e in questo c'è molta così della retorica della politica, per essere buoni. A mio avviso è più importante quanto ha ricordato il ministro Padoan oggi, dicendo: attenzione, avessimo indicizzato tutte le pensioni, il deficit andava al 3,6%. Ora, non solo quindi perdevamo la possibilità di flessibilità che ti dà un deficit sotto il 3%, ma entravi anche nella procedura di infrazione di nuovo europea. Non è solo un problema di, perché alcuni scrivono: ma perché fare una doppia finanziaria? Perché hai dei vincoli europei. Cioè, allora, in questo momento l'unica flessibilità che permette l'Europa è: se tu sei in un percorso virtuoso sotto il 3%, ti dà un po' di margine. Se però tu non sei al 3%, se poi sei al 3,6, altri fanno notare che questo arriva a ridosso delle elezioni. Sì, vabbè, però posso dire una cosa: è chiaro che uno può vederla come vuole, ma la sentenza della Consulta, allora uno dovrebbe dire che anche la sentenza della Consulta è arrivata a ridosso delle elezioni, mettendo nei casini il governo. Cioè, allora cosa vuol dire? Che la sentenza della Consulta viene vista come un atto politico contro il governo, perché aveva appena parlato di tesoretto, e quindi la risposta è una risposta politica? Cioè, o è tutto politico, o prendiamo atto che la Consulta è uscita in maniera autonoma, con dei tempi a mio avviso inaccettabili, ma poco prima delle elezioni, con una sentenza che rischiava di far saltare le casse dello Stato e ogni manovra possibile, il governo ha risposto in un tempo ragionevole, perché non puoi neanche ignorare la sentenza della Corte Costituzionale per troppo tempo. Che poi tutto ricada sotto elezioni, sì, è vero, ma prendiamo dal principio il problema, cioè da quando è arrivata la sentenza della Consulta. Vabbè, visto che parlavamo di deficit, un rapido accenno alla Grecia. L'Unione Europea a chiedere ad Atene che acceleri, servono più sforzi. Intanto in Grecia è stato confermato che decine di ambasciate e consolati hanno ricevuto l'ordine dal governo di Atene di restituire i fondi non assegnati che hanno in cassa. Sono tutte le autorità diplomatiche elleniche all'estero sono state chiamate anche a spedire in patria i ricavi ottenuti dagli atti consolari, per il rilascio dei visti, le deleghe, le autentificazioni. Si tratta di un fatto senza precedenti, onestamente anch'io non ho ricordi. Nel frattempo vi sono indiscrezioni di stampa greca che sottolineano come il presidente della Commissione Europea Juncker avrebbe messo a punto una bozza per un possibile accordo con Atene che sbloccherebbe finanziamenti per 5 miliardi a fronte di richieste di saldi di finanza pubblica per quello che riguarda Atene meno severe in precedenza. Tutto si vedrà a riga. L'accordo dovrebbe arrivare, se arriverà, ormai con la Grecia il dubitativo è d'obbligo, al prossimo vertice europeo di Riga il 21-22 maggio, per arrivare a un'intesa finale prima di inizio giugno. Oh, il fisco locale oggi sul Sole 24 del lunedì. Gianni Trovati, buonasera. Buonasera a voi. ragionamento l'ho fatto ampiamente in apertura, quindi attenzione, perché da un lato è corretto dire gli enti locali hanno avuto meno trasferimenti, quindi vanno a aumentare la tassazione locale, ed è il motivo per cui il governo poi ha ben dire non abbiamo aumentato la tassazione, ma il cittadino contribuente ha un ben dire no, mi sono usciti più soldi perché tu non l'avrai aumentata a livello nazionale, poi mi è salita l'IRPEF regionale, l'IRPEF comunale. E questo è per spiegare che non tutte le regioni comuni sono brutti e cattivi. Detto questo, per non essere completamente schizofrenici, questo non vuol dire che le regioni e i comuni, soprattutto in alcune regioni e alcuni comuni, non possono ricorrere a maggiori tagli della spesa invece che all'aumento delle entrate. Scrive un ascoltatore, ma insomma, se io a casa mia ho meno entrate, la prima cosa che faccio è riduco la spesa. Certo, perché lei non può tassare sua moglie o sua suocera o suo cognato, e invece l'ente locale può ricorrere anche a questo. Comunque il dato è abbastanza sconfortante: l'anno scorso 15 miliardi e 100 di addizionali locali, che erano già in aumento del 4% rispetto al 2013, quest'anno avete calcolato che si arriverà a 16 miliardi? Esatto, e la parte del leone la fanno naturalmente le regioni, un po' per le dimensioni dei loro bilanci, un po' per le loro aliquote. Proprio le addizionali regionali sono il problema fondamentale, perché dimostrano in maniera evidente, diciamo, che il federalismo in Italia non è mai arrivato, o peggio, ne è arrivata solo una parte, quella cattiva. Nel senso che questo aumento delle addizionali regionali nasce anche, è anzi reso possibile soprattutto, dal fatto che il federalismo fiscale, decreto Calderoli e decreti attuativi, prevedeva un progressivo aumento dei tetti massimi delle aliquote regionali. Prevedeva poi un'altra cosa, che l'aumento del fisco regionale sarebbe stato compensato da un abbassamento equivalente del fisco nazionale, perché l'idea era diamo più poteri, competenze, sì, autonomia alle regioni e quindi chiediamo meno soldi allo Stato. È successa solo la prima cosa. Ad aggravare il tutto c'è il fatto che il governo Monti, nel momento di massima crisi finanziaria, ha da un lato introdotto degli aumenti lineari, cioè uguali per tutti, nelle aliquote regionali, e dall'altro ha anticipato il calendario degli aumenti resi possibili dal federalismo fiscale. Naturalmente senza ritoccare al ribasso le aliquote dell'IRPEF nazionale. Il risultato è che oggi le regioni possono chiedere fino al 3,33% e c'è già chi lo fa. Il Lazio, prima di tutto, per molti redditi sopra i 15.000 euro, e il Piemonte solo per i redditi superiori a 75.000 euro. Quindi tra regione e comune si può arrivare al 4,1% di aliquota, a Roma al 4,2%, perché il comune ha un margine in più per il fatto di essere capitale. Dove è aumentato di più il fisco in questi anni? Noi abbiamo fatto i calcoli regione per regione e capoluogo per capoluogo, e Venezia e Milano, i cittadini di Venezia e Milano sono quelli che hanno subito gli aumenti maggiori. Tra 2010 e 2015 parliamo di aumenti che, a seconda dei redditi, oscillano fra l'80 e il 125%. Perché? Perché dal erano, 2010. Sì, perché erano le città e le regioni con il fisco locale più basso all'epoca, perché i romani sono aumentati meno ma pagano talmente tanto che non potevano aumentare. Cosa vuol dire? Questo mancato federalismo ha livellato verso l'alto aliquote senza locali, che sia diminuita l'IRPEF nazionale. Senza che sia diminuita l'IRPEF nazionale e senza che il contribuente abbia una spiegazione, cioè a livello di addizionali vivere a Firenze costa meno della metà che vivere a Roma. Io non penso che i servizi regionali e locali... Ci arriviamo, perché ti faccio fare la classifica dopo il metodo della pubblicità, perché un conto è il ragionamento di principio, che non è per scusare le regioni e i comuni, figurati, insomma, sto programma avrà tante colpe, ma non mi sembra così tenero con le regioni e con i comuni italiani, quando c'è da criticarli e bastonarli per gli sprechi. Però un conto è dire, attenzione, lo Stato ha fatto meno trasferimenti, quindi il governo, questo ma anche quelli precedenti, si assumono le loro responsabilità, perché se tu tagli i trasferimenti, quest'anno in finanziaria cos'erano? 4 miliardi, Gianni, 4 e 4 se non ricordo male, sembro Razzi, 4 miliardi e 4, se tu non fai trasferimenti è chiaro che il rischio forte che gli enti locali più virtuosi, che già hanno risparmiato tutto quello che si poteva risparmiare ma devono continuare a erogare dei servizi, i soldi li recuperino dall'aumento delle addizionali. Quindi è inutile che il governo nazionale, ripeto, questo e quelli precedenti, visto che dal 2010 sono aumentate, come avete scoperto oggi su Sole 24 Ore, del 37% i contributi locali, è chiaro che il governo deve assumersi le sue responsabilità e spiegare, farsi una domanda e darsi una risposta, così cito anche Marzullo oggi, e capire perché l'effetto degli 80 euro molte volte non si è verificato. Da un punto di vista macroeconomico è abbastanza chiaro. Detto questo, però, non vuol dire legittimare tutte le regioni, tutti i comuni in maniera uguale ad aumentare in quel modo le aliquote, perché tu o mi dimostri che non hai altre spese, e allora non abbiamo più la rubrica della top 5 della settimana a sto punto, c'è altre spese, sprechi che puoi tagliare, e mi dimostri che eroghi dei servizi analoghi a una regione o a un comune, diciamo, che ha la tua stessa aliquota, o se no c'è qualcosa che non va. Vuol dire che tu stai mantenendo delle inefficienze, per essere buoni, per essere cattivi, degli sprechi anche a rischio, diciamo, corruttela, e per non tagliare quelli aumenti l'aliquota, come comuni o regioni virtuosi che invece lo fanno, ma hanno già un altro tipo di garanzia nei servizi o un altro contenimento dei costi. Dopo il metro e la pubblicità, la classifica, ahimè, di chi paga più degli aumenti maggiori per IRPEF comunale e regionale. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Focus Economia, con Sebastiano Barisoni. Allora, molti mi scrivono, quindi il federalismo fiscale è stata una fregatura. Sì, fatto come è stato fatto, sì, io non ho dubbi su questo, e temevamo, chi si ricorda questo programma anni fa, che in uno Stato che difficilmente, penso quasi mai, ha abbassato la pressione fiscale per tutti, il federalismo fiscale avrebbe moltiplicato i centri di costo e quindi di imposizione fiscale senza produrre un beneficio reale per il cittadino. Altra cosa era, come abbiamo chiesto modestamente più volte, chiedere un federalismo reale negli acquisti, o meglio, all'interno del federalismo c'era il tema dei costi standard della pubblica amministrazione. Quello, a nostro avviso, era la prima cosa da affrontare, perché il 70% del disavanzo delle regioni italiane è dovuto, si chiama sanità, e si concentra in alcune regioni. Alcune sono migliorate, stanno ripagando, ma si concentra in alcune regioni. Quindi, se tu aggredisci quello, hai aggredito il grosso dei disavanzi delle regioni in primo luogo. E come si aggredisce? Esigendo che tutti i costi dei beni intermedi per la spesa sanitaria, siringhe, plasma, TAC e quant'altro, siano uniformati nel paese, e tranne rarissime eccezioni, se devi trasportare una TAC nell'isola remota dell'arcipelago italiano ti costerà un po' di più, ma salvo rare eccezioni i costi siano quelli, non possono essere 7-8 volte. Quella è la cosa più importante, forse l'unica, perché il federalismo fiscale, uno Stato che ha questo debito, non riuscirà mai a farlo veramente. Su, sui diritti acquisiti intoccabili, uno voleva, sì, guardi, onestamente bisogna scegliere nella vita. Allora, se si sceglie che le pensioni sopra una certa soglia quest'anno non vengono indicizzati, e questo evita di aumentare una pressione fiscale per tutti noi, beh, io devo dire che sono d'accordo. Lei mi dice sopra i 3.200 euro lordi non è una gran pensione, è vero, non sto dicendo che sia una pensione da ricchi, non è una pensione da 10.000 euro, però diciamocela tutta, è sicuramente una pensione accettabile. E un aspetto l'anno prossimo. L'alternativa era fare una nuova manovra che a questo punto voleva dire sostanzialmente IVA o IRPEF, su chi l'IVA la paga e su chi l'IRPEF la paga. Non c'erano molte alternative, altro che sforare i parametri di Maastricht, il 3%, senza un accordo europeo ti becchi le sanzioni e il monitoraggio europeo. Comunque, dai, Gianni Trovati, la classifica, così vediamo se all'aumento dell'addizionale IRPEF locale e regionale, quindi comunale e regionale, corrisponde anche, diciamo così, una buona amministrazione quanto a servizi e costi dei singoli soggetti. Dove sono aumentati di più in base anche ai livelli di reddito? Prego. Allora, sì, non pare corrisponda. Anticipiamo le conclusioni. L'IRPEF regionale più comunale più alta è pagata dai cittadini di Roma. L'IRPEF regionale comunale più bassa è pagata dai cittadini di Firenze. Gli aumenti maggiori sono stati subiti in questi anni dai cittadini di Venezia, prima di tutto, e di Milano. Sia nel caso di Venezia, sia nel caso di Milano, il ruolo, diciamo, di motore dell'addizionale è però dei comuni, perché Venezia e Milano erano gli ultimi grandi comuni qualche anno fa che non avevano l'addizionale IRPEF, poi taglia che ti ritaglia, l'hanno prima introdotta e poi è subito schizzata al massimo, e quindi questo ha determinato aumenti nell'IRPEF locale totale, che a Venezia sono intorno al 125% dal 2015 al 2010. Quello che si nota è proprio che non c'è alcuna corrispondenza tra il livello di pagamento e il livello dei servizi, anzi, diciamo peggio, c'è una corrispondenza tendenzialmente al contrario, dove cioè il livello dei servizi locali è più in difficoltà, spesso le aliquote delle addizionali crescono, perché l'addizionale in questo federalismo a metà che dicevamo prima non serve in realtà a finanziare servizi aggiuntivi, ma serve a coprire o cercare di rimediare a problemi di bilancio, e in genere servizi buoni, bilanci buoni; servizi cattivi, bilanci pessimi. Questa è una regola generale. E questo è molto importante, perché c'è un po' di retorica su questo. Sì, io avrò il bilancio anche in rosso, ma questo lo faccio per gli asili, per le strade, per la sanità. No, l'esperienza non è la valutazione che il Sole 24 Ore ha acquisito in tutti questi anni. Ti dice una cosa molto chiara: laddove i bilanci sono buoni negli enti locali, anche i servizi tendono ad essere buoni. Laddove i bilanci fanno schifo, i servizi fanno schifo, perché dietro un bilancio fatto male c'è un amministratore, ben che vada, incompetente, o un politico locale, ben che vada, incompetente, male che vada, corrotto. Ok? Per cui poi tutto questo, altro che redistribuzione sotto altre forme, genera solo maggiori tasse per i residenti, minori servizi per i residenti, maggiore corruzione e spreco nell'amministrazione locale. Non si spiega come mai, al di là di Venezia e Milano, tu l'hai chiarito, erano rimaste ferme alla parte bassa. Praticamente Bari abbia avuto un aumento dal 2010 del 57% e Trento solo del 20%, Bologna del 16%, per cui ci sono delle anomalie. Potenza più 50%, quando, ripeto, città che godono di una buona amministrazione hanno avuto rialzi molto molto molto più contenuti. C'è il caso di Bolzano, che ha avuto il 30%. Per cui la tabella è su Sole 24 Ore di oggi, molto, e tra l'altro va a vedere anche quanto è l'addizionale che tu paghi se hai un reddito di 30.000 e un reddito di 50.000 euro. Faccio notare che un reddito lordo di 50.000 euro, se hai famiglia, è buono. Torniamo al discorso dei pensionati, ma non è che stai navigando nell'oro, eh? E allora vedere che tu in 5 anni paghi 1.875 euro in più all'anno di addizionali comunali regionali a Roma, per esempio, o che ne paghi nel caso di Milano 1.160, nel caso di Venezia 1.000, nel caso di Palermo, alla faccia della buona amministrazione, 1.260 euro in più i palermitani, tra regione 865 e comune 400 euro in 5 anni. Potrei andare avanti. Bari, abbiamo appena raccontato, la regione 760 euro in più in 5 anni, il comune 400 euro in più, per un totale di 1.162. Non posso fare tutta la lista. Comunque gli aumenti pagati dai contribuenti nell'arco di 5 anni addizionali viaggiano dai 1.000 euro in su, dai 1.000 ai 1.200 euro. Poi alcuni sono 700, 800. Poi ti chiedi perché l'effetto di 80 euro non si è visto. La risposta oggi è pagina 3 del Sole 24 Ore. Grazie a Gianni Trovati. Grazie. Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sul limite dei 3.200 euro. Mi chiede una pensionata che ne ha 3.020 mensili ed intendersi annuo. Sì, certo, certo. Per quest'anno, quindi lei rientra. L'anno prossimo il ministro, abbiamo fatto ascoltare, dirà che ha detto che vi sarà un'indicizzazione anche più generosa. Altri mi scrivono: ma come, 3.200 euro lordi non è una gran pensione? Io come ingegnere con 110 lode, due lingue estere, ne ho assunto, guadagno 2.000 euro lordi e non sono neanche e ringrazio anche di essere assunto. Infatti io ho detto semplicemente che 3.200 euro non è una pensione da ricchi, non sono le pensioni sopra i 10.000. Però non si può neanche dire che sia una pensione così in difficoltà. Rendiamoci conto di quello che è lo scenario fuori. Poi, se aggiungo che delle volte queste pensioni a 3.200 euro non sono corrispondenti ai contributi effettivamente versati, perché sono andati in pensione con retributivo molti e non con il contributivo, a maggior ragione lì una mano sulla coscienza se la mettono le persone, perché adesso quella la pensione lì ce l'hai solo col contributivo, non con la media degli ultimi stipendi degli ultimi anni. Comunque Andrea Fontana, la borsa prima, oggi, ripeto, tutto falsato dallo stacco cedole che pesava per l'1,6%, la borsa ha chiuso con un meno 1,17, per cui teoricamente, o meglio, sarebbe positiva di uno 0,3, no? Esattamente, lo stacco dei dividendi, oggi 21 società su 40 hanno staccato la cedola, quindi 8 miliardi di euro circa distribuiti agli azionisti, andamento dell'indice falsato che altrimenti sarebbe abbastanza accodato al resto dell'Europa, tutto leggermente positivo, anche con Wall Street che ha un Dow Jones che è ancora ai massimi intorno a 8.300 punti, meglio di tutti ha fatto Francoforte, la scorsa settimana era rimasta un po' indietro e poi qualche operazione straordinaria nel settore della farmaceutica negli Stati Uniti ha spinto i titoli di Francoforte della farmaceutica, ma anche settore industriale, quindi Francoforte più 1,3, le altre borse più 0,3, più 0,4%. Sì, infatti più 0,4 Parigi, più 1,30 Francoforte, tu lo ricordavi la migliore. Citiamo solo quelli non con stacco cedola, praticamente, cioè Monte dei Paschi meno 3,85, questo è reale. E sì, sul fronte opposto Exor più 1,80, Fiat più 1,50, A2A più 1,40, sto citando appunto titoli che non staccavano la cedola. Però posso aggiungere anche la Pop Emilia Romagna e Luxottica che hanno guadagnato l'1,1 nonostante lo stacco della cedola. Sì, per quanto riguarda il Monte dei Paschi, siamo entrati nelle montagne russe pre-aumento di capitale, la prossima settimana parte la ricapitalizzazione da 3 miliardi di euro, oggi c'è stato l'accorpamento delle azioni una ogni 20 precedenti, quindi il titolo ha cambiato anche sensibilmente prezzo, adesso ha aperto la seduta di oggi a 10,92 mentre prima stava a 0,55 centesimi indicativamente, ma la flessione è dovuta soprattutto alle attese sul prezzo dei titoli di nuova emissione per l'aumento di capitale, si parla di uno sconto, diciamo così, sul prezzo teorico tolto il diritto del 30-40%, ecco perché è partita la montagna russa sul titolo del Monte dei Paschi. Per Exor e Fiat invece discorsi più finanziari, industriali. Exor oggi ha venduto la partecipazione in un gruppo assicurativo svizzero all'Aid World incassando 165 milioni e questo darà liquidità per l'operazione madre che sta studiando Exor negli Stati Uniti, che ha lanciato 6,8 miliardi di dollari per partner real estate. Fiat bene con l'intero settore automobilistico, poi c'è stato anche il rimborso di un bond per Chrysler e questo è importante perché alleggerisce il peso del debito su Chrysler. A2A bene più 1,4%, i risultati trimestrali comunicati venerdì sono piaciuti al mercato, sono stati superiori alle attese e il titolo ha ben risposto oggi. Grazie Andrea anche per la capacità di sintesi, perché insomma, ce l'abbiamo fatta al pelo con tutti i titoli. I migliori e peggiori li darò io dopo il GR24. Grazie intanto Andrea Fontana di Radio Corri Sole 24 Ore. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, poi pensioni e cassa integrazione. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani, oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mancavano i migliori e i peggiori. Allora, sui peggiori ripeto, attenzione allo stacco delle cedole, comunque oltre a Snam che appunto andava a staccare il dividendo, Fidi a meno 5,33, tra i migliori Vianini Lavori più 6,77, Giorgio Fedon più 18, Caltagirone più, scusatemi, Vianini Lavori più 17%, Giorgio Fedon più 13, Caltagirone più 10% e Workspace più 9%. Dunque, scrive un ascoltatore, il tema di pensioni retributivo non equivale a ingiusto. Beh, insomma, se uno come me ha lavorato per uno stipendio decente durante la grande inflazione, la pensione equivale al contributo, al contributivo. Sì, guardi, possiamo girarci attorno quanto vogliamo. Il problema è che chi percepisce un livello di pensione da retributivo, cioè sulla base degli ultimi stipendi, e non da contributivo, cioè sulla base degli versamenti effettivamente, dei contributi effettivamente versati, ha un vantaggio, che non vuol dire che deve nascondersi, però ha un vantaggio. O facciamo finta, facciamo come Marchese del Grillo, no? Per cui io ho avuto, chi ha avuto ha avuto, io sono io, non siete nulla. No, vediamo di capire che per chi ha meno di 40 anni in questo paese la domanda cosa pensi della pensione, la risposta è boh, perché uno manco sa che tipo di pensione potrà avere tra 30 anni o 20 anni di lavoro. Ecco, allora si è solo detto che la pensione sopra i 3.200 euro è una pensione, o la pensione fino ai 3.200 euro lordi in su non è una brutta pensione, lo possiamo dire questo, a maggior ragione se è stata ottenuta con il retributivo. Comunque, adesso vi arriviamo sull'INPS, approfondiremo in un'altra puntata. Oggi, ripeto, con i dati della cassa integrazione in deroga, che è crollata perché mancavano i finanziamenti, non perché improvvisamente siano migliorati i bilanci delle aziende che la utilizzano. Oggi il ministro Poletti ha detto ci sarà 1 miliardo, partiremo per il pagamento del 2015, riposizioneremo 1 miliardo di euro dal fondo Jobs Act al fondo sociale per l'occupazione, per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015, quindi 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga. Ovviamente la cosa più importante di cui ha parlato il ministro Poletti riguarda la decisione oggi confermata, ieri già anticipata dal premier Matteo Renzi, e qui premier del quale ha detto nell'ordine: se avessimo restituito 18 miliardi avremmo tolto ad altri. Qui c'è un po' di retorica sugli asili, le infrastrutture, dipendenti, ma è indubbio che l'Italia o entrava nella procedura di infrazione europea perché il deficit andava al 3,6% e non si può fare, o faceva una seconda manovra finanziaria distruggendo, perché vuol dire aumento dell'IVA, aumento dell'IRPEF, aumento delle tasse, distruggendo ciò che resta del potere d'acquisto, parliamoci in maniera molto schietta. Ridicolo chi votò la norma e ora si lamenta, noi correggiamo errori di altri, così sempre il Presidente del Consiglio. Se dovesse semplicemente azzerare la norma, dovremmo trovare 18 miliardi di euro, e 18 miliardi di euro significherebbe che dovresti togliere dei denari a qualcos'altro. A ciò si aggiunge che questo tipo di provvedimento suona abbastanza paradossale nella bocca di chi quella norma l'ha votata. Perché adesso sveliamo un segreto: quando questa norma è stata votata, questo signore faceva un altro mestiere. Questo signore faceva un altro mestiere e io tappavo le buche nella città di Firenze. Facevo anche cose più divertenti. Ma è il colmo che adesso chi ha votato quella norma venga da noi tre a dirci: sì, però scusate, fate capire, però bisogna restituire tutto. È semplicemente ridicolo, detto da coloro i quali quella norma hanno voluto, quella norma hanno votato. E qui il riferimento chiaro era una parte della minoranza del PD da un lato e a Forza Italia agli altri dall'altro. Ripeto, quel governo era appoggiato dai due principali partiti e non fu votato da Lega. I 5 Stelle non esistevano, o esistevano, adesso vado a memoria, comunque sicuramente non lo appoggiano. Per cui un po' di coerenza a livello politico ci vorrebbe. Ancora sì, il partito del Premier, come scrive un ascoltatore, l'ha votato. Certo che il PD l'ha votato, ci mancherebbe. Sì, ho citato il Marchese Grillo in maniera non corretta, non volevo essere volgare, però insomma ci siamo capiti su questo. Sempre il Presidente del Consiglio, saranno 2 miliardi e 180 milioni per 3 milioni e 700 mila pensionati. La soglia è dei 3.200 euro lordi al mese, questo ripeto l'ha annunciato il Presidente del Consiglio. Il rimborso varierà a seconda delle pensioni da 750 euro se 1.700 euro mensili, 278 euro con assegno di 2.700 euro, quindi è più alto chiaramente, più bassa è la pensione. Il bonus Poletti, si chiama bonus perché è una tantum, per cui non è un adeguamento. L'adeguamento vero e proprio, come ha chiarito sempre il Presidente del Consiglio, arriverà dal 2016. Avrai il primo di agosto il bonus Poletti di 750 euro. Se prendi 2002 avrai il bonus Poletti di 450 euro, poi ovviamente essendo graduale può essere centesimo in più, centesimo in meno, ma vi do i dati. Se prendi 2.700 euro lordi avrai il bonus Poletti di 278 euro. Una tantum il bonus. Poi si pone il tema della indicizzazione dei successivi benefici del 2016, che porta a dire che all'anno quello che guadagna 1.700 euro di pensione avrà 180 euro, cioè sostanzialmente avrà 15 euro al mese. Quello che prende 2.200 avrà 99 euro, quello che prende 2.700 avrà 60 euro, all'anno 5 euro. La conclusione di questa riflessione è la seguente: bonus più beneficio in prospettiva. Allora, alcuni dicono: ma insomma, trovare le risorse in altro modo, fare la spending review. Guardate, abbiamo attaccato il governo, ma basta riascoltarsi le puntate, perché ha mollato il colpo, a nostro avviso, su due temi fondamentali: lotta all'evasione fiscale, pur mettendoli nel documento economico finanziario, nel DEF, e quindi pur prevedendo delle entrate. A noi sembra che ci sia un silenzio abbastanza assordante sul tema della lotta all'evasione fiscale e su quali saranno i tagli alla spesa pubblica. Quelli, diciamo, la spesa pubblica non produttiva, non i tagli agli stipendi, ma i tagli ai 138 miliardi di euro di spese di beni intermedi che ogni anno paghiamo per gli acquisti della pubblica amministrazione nazionale e locale. La famosa spending review di Cottarelli è rimasta, non so, c'è Gutgeld, vedremo. Ci sembra che il governo sia piuttosto silenzioso su questo. Detto ciò, nel momento in cui la sentenza è arrivata e il governo doveva dare una risposta, se avesse detto arriveranno i soldi, il bonus dalla lotta all'evasione, la spending review, auguri, no? Per cui, cioè, non poteva neanche rispondere così, perché la Commissione Europea non ti faceva passare una legge di stabilità e delle previsioni di conti pubblici ipotizzando quanti soldi sarebbero arrivati da spending review e evasione fiscale. Fermo restando che il governo su questo è, a nostro avviso, troppo silenzioso. Comunque il ministro Padoan ha spiegato come questa risposta eviti la procedura di infrazione dell'Unione Europea e poi ha chiarito come da dal 2016 l'indicizzazione sia più generosa. Dover fronteggiare tutti gli esborsi implicitamente previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale avrebbe impegnato per il 2015 risorse che avrebbero portato l'indebitamento al 3,6%, e sto parlando solo del 2015 perché dobbiamo aggiungere le risorse che sarebbero accumulate a partire dal 2015 per il futuro. Questo avrebbe comportato l'ingresso dell'Italia in una procedura di deficit eccessivo, l'immediata rimozione della clausola delle riforme che invece la Commissione ci aveva concesso in base appunto allo sforzo di riforme e il mancato rispetto della regola del debito. Tutto ciò avrebbe comportato un'ulteriore esigenza di aggiustamento di finanza pubblica che avrebbe quindi invertito la tendenza dell'economia dove come si trova adesso, cioè in crescita e in risanamento dei conti pubblici. Il provvedimento si può dividere in tre parti: un calcolo degli arretrati relativi alla indicizzazione degli anni 2012-13, che sono arretrati che coprono parzialmente quelli previsti dalla rimozione in base alla rimozione della legge votata nel 2011 per quanto riguarda le pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte il minimo. Una seconda parte che riguarda il calcolo della indicizzazione per il periodo 2014-2015 e infine a partire dal 2016 una introduzione di un meccanismo di indicizzazione più generoso rispetto a quello utilizzato per il calcolo negli anni precedenti, in modo tale che negli anni successivi i principi ispiratori della norma della Corte Costituzionale, cioè adeguatezza, gradualità e proporzionalità nel trattamento dell'indicizzazione, sono rispettati. Questo significa, lo ripeto ancora, che l'aumento di reddito tramite pensioni diventa un aumento permanente in base alla reintroduzione di un meccanismo di indicizzazione. Allora, poi il 25% di questi rimborsi andrà al sud, al nord il 55%, nel nostro mezzogiorno c'è 1 milione di pensionati sui 4 milioni che avranno i 500 euro. La UIL fa sapere che il governo non rispetta la decisione della Corte, la CISL, la risposta del governo è definita dalla CISL insufficiente. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, è nostro ospite, aspettiamo ancora un minuto il traffico. Focus Economia. No need to love and cry. It's a wonderful, wonderful life. Allora, dicevamo della conferenza stampa, vedo moltissimi messaggi, era immaginabile, della conferenza stampa che ha annunciato il provvedimento sulle pensioni, visto che citavo i sindacati, cito anche a questo punto, che non è un sindacato, la CGA di Mestre che dice con 500 euro verrà rimborsato l'11% del dovuto, questa è la percentuale calcolata sui 18 miliardi del blocco dell'indicizzazione. Devo dire che non so se sia l'11%, ma il governo ha chiarito che si tratta di un esborso di 2 miliardi e 180 milioni rispetto ai 18 miliardi che sarebbero stati necessari se uno avesse indicizzato tutte le pensioni. Il blocco è riferito agli ultimi 2 anni, il bonus è riferito agli anni 2012-2013, ecco perché è più alto di quello che poi sarà l'indicizzazione delle pensioni. Allora, sempre il ministro Poletti, come anticipavo, sulla cassa integrazione in deroga. Solo per completare l'illustrazione, a partire da un primo elemento che riguarda la decisione di portare 1 miliardo di euro al Fondo Sociale per l'Occupazione per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015. Noi abbiamo concluso un paio di settimane fa insieme al ministro Padoan il pagamento, quindi i decreti necessari a pagare gli ammortizzatori sociali in deroga. mobilità e cassa integrazione per il 2014, con un finanziamento di 500 milioni, anticipando la chiusura dell'anno precedente di 3 mesi. Quindi siamo ancora troppo lenti, ma abbiamo utilizzato 3 mesi in meno dell'anno precedente per fare questi atti. Adesso partiamo per il pagamento di quelli del 2015. Per pagare questi ammortizzatori sociali abbiamo bisogno e riposizioneremo 1 miliardo di euro dal fondo cosiddetto Jobs Act al fondo sociale per l'occupazione. Allora, questo è il tema della cassa integrazione in deroga. Per quello che riguarda, dicevo, uno può avere l'opinione che vuole sul tema delle pensioni, ci mancherebbe, e di quello che ha fatto il governo. Però bisogna anche partire da un elemento, a mio avviso, visto che fra poco ci sarà un'altra sentenza della Consulta sul blocco dell'adeguamento degli stipendi del pubblico impiego. Intanto la votazione della Consulta, 6 su 6, si sono spaccati a metà, quindi tutta questa certezza non c'era. Perché lo dico? Perché questo è uno dei passaggi nel fondo di Fabrizio Forché di sabato scorso, in cui c'è un punto, la Consulta e l'illusione di diritti senza fine, in cui Forché scrive: da una parte sembra quasi che una parte dei giudici costituzionali viva in un mondo tutto suo, a prescindere dalla realtà, dai vincoli europei in cui è inserita l'Italia e dei cambiamenti strutturali che nell'ultimo decennio sta affrontando il paese. Quello delle pensioni è il caso più eclatante. Diritti acquisiti, si dice, ma in che epoca? Quando con il baby boom la popolazione passava da 45 milioni del dopoguerra ai 57 milioni del 2000, quindi manteneva le pensioni di chi andava in pensione, quando gli occupati crescevano a tempo indeterminato e con loro aumentava progressivamente il monte contributivo, o quando la speranza di vita si fermava a 69 anni nel 71 e non a 82 come oggi. Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera. Qui il tema, più che di carattere economico, è di carattere anche politico, di percezione dell'opinione pubblica. Ricordava anche il fatto che molte di queste pensioni, o alcune, sono di carattere retributivo e non più contributivo, e non contributivo, quindi godono di un privilegio che tutti gli altri non avranno mai. Tu noti veramente, insomma, che c'è, perché i sindacati ricorrono a questo, l'opposizione ricorre a questo, l'idea come se no, la sentenza si applica al di là del contesto in cui stiamo vivendo? Quindi è veramente un problema culturale più generale, non è tanto il problema della recente sentenza della Corte Costituzionale, dove io non entro nel merito giuridico della decisione, c'è un problema culturale generale, cioè noi non possiamo equiparare tutte le garanzie e le tutele previste dal nostro ordinamento a dei diritti assoluti e intoccabili, perché purtroppo le situazioni economiche evolvono, le compatibilità economiche evolvono, e se tu consideri quelle che sono solo delle tutele e delle garanzie importanti ma non dei diritti assoluti, li equipari a diritti assoluti, finisci che quando cambiano appunto le compatibilità economiche tu garantisci alcuni e invece garantisce la disperazione di altri, perché per tutelare quelle garanzie che non sono più garantibili con l'equilibrio economico di oggi, tu finisci per affamare un'altra parte di popolazione. Qui, insomma, l'esempio delle pensioni è veramente quello classico, insomma, garantire diritti cosiddetti acquisiti, che in realtà sono tutele e garanzie di quando il paese cresceva, cioè il baby boom, si pagavano contributi, garantire quei trattamenti significa di fatto non pagare pensioni decenti e non pagarle proprio alle giovani generazioni, non solo, permettimi di dire, significa anche gravare su queste giovani generazioni con un prelievo contributivo talmente alto da far sì che queste persone non trovano lavoro. La decontribuzione che sta garantendo una certa quota di contratti a tempo indeterminato, con la decontribuzione noi stiamo vedendo che le aziende assumono a tempo indeterminato. Questo che cosa ci dice? Ci dice che veramente il cuneo contributivo, il gravame contributivo è una causa della disoccupazione di oggi. Se tu puoi alleggerire, o del cattivo contratto, diciamo, che tu preferisci fare un poco pro invece che un tempo indeterminato. Fabrizio, due obiezioni, purtroppo abbiamo ancora 2 minuti scarsi. La prima, allora però sulla base di questa logica bisognerebbe anche spiegare una parte del paese che ha vissuto in anni bellissimi di crescita, che quel tipo di sostenibilità non è più necessaria, e penso allora a tutte le pensioni sopra un certo livello e chiedere a loro una partecipazione più alta, a maggior ragione se sono con retributivo, non me ne frega nulla, ma retributivo è un sogno che noi non vedremo mai, un film che non vedremo mai, per cui tu sulla base delle ultime retribuzioni ti beccavi la pensione. E la credibilità di una classe politica che non riesce a toccare i vitalizi, però fa sì, e uno dice, ma no, io un sacrificio non lo faccio perché questi soldi poi non vanno a mio nipote piuttosto che al mio vicino di casa giovane, vanno semplicemente a rimpinguare una politica che non riesce nemmeno, a proposito di diritti acquisiti, a levare quello scandalo che è il vitalizio, perché lì proprio neanche un lavoro, neanche un pagamento differito può essere inteso. Fabrizio. Sebastiano, quello è, cioè noi è chiaro che quando facciamo questi ragionamenti poi non li facciamo prendendocela con i pensionati che già hanno una pensione molto bassa, una pensione media, insomma certamente non sono dei privilegiati, e queste persone vanno tutelate, ci sono pensioni sulle quali non può intervenire perché già sono al limite della sopravvivenza. È chiaro che noi andiamo a guardare alle pensioni alte, andiamo a guardare alle pensioni alte che non sono coperte minimamente, se non davvero in minima parte, un decimo, meno di un decimo dai contributi versati. Insomma, questo è il vero problema. Noi non possiamo più garantire pensioni a trattamenti medio-alti che sono coperte per contributi per meno di un decimo, quando invece le nuove generazioni tutte andranno in pensione con il contributivo al 100%, se va bene. Al 100%, e spesso con carriere discontinue, per cui questi contributi davvero sono modesti molto spesso. Hai ragione, anche perché non sempre uno li ha versati, e sui vitalizi immagino che il ragionamento ne conseguisse. Io temo che quello è un elemento politico fortissimo, non mi fido di una classe politica che non tocca i vitalizi, non tocca neanche un taglio del 10% sui vitalizi. Torneremo a parlarne, grazie a Fabrizio Forchevici, direttore del Sole 24 Ore. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.